Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ti ascolto. Sogno. Ho avuto un incontro con l'ambasciatore olandese, vero? Ho sognato. Cosa? Sogno così, ad occhi aperti, desideri, di stupro anche, passivo, capisci? Atti? Nessuno, come in politica. Sogno anche lì di prendere delle decisioni. La riforma sanitaria, medicine gratis per tutti, per esempio. E allora? E allora tu sai quanto mi sta a cuore questa riforma, è vero, ma non riesco a vararla. Togli via le operazioni e poi mi ritiro. È come una erezione. Certo, questa confessione dell'onorevole Democristiano, che nei suoi sogni indicibili c'è anche quello di essere sodomizzato, alla fine è questo, no? Giuseppe Sanson. In parte anche questo era Todo Modo di Elio Petri, e c'è uno straordinario Volonté che incarna una sorta di Moro, tra l'altro 2 anni prima. Somigliava anche troppo a Moro. Fin troppo, alla Noschese dicevano che si era calato fin troppo nei panni. Addirittura i primi giorni di Girato li buttarono perché era eccessivo il bizantinismo con cui lo imitava. Qui sta parlando con Mastroianni, che invece è questo prete duro che li ammaestra ai riti di Sant'Ignazio di Loyola, gli esercizi spirituali, in questo albergo cupo sciasciano. Che anno è Todo Modo? E siamo nel 76. Nel 76 viene fermato un momento che aveva un suo senso. Nella classe politica dominante, nel monocolore democristiano, comunque c'era la necessità degli esercizi spirituali, perché non si poteva millantare quella fede, quella pratica religiosa che veniva comunque infarcita in tutte le operazioni politiche. C'era il momento reale, ma da allora in poi le cose sono cambiate. E questa mattina vorremmo farvi vedere come viene fermato, congelato e rappresentato il bigottismo, che è in fondo la parte più deleteria del nostro paese. I bigotti sono peggio dei ladri. I bigotti sono i peggio di tutti, sono i peggiori in assoluto. E i bigotti in realtà nel nostro paese hanno avuto sempre una grande parte. Il bigotto nulla a che fare con l'uomo di fede. Il bigotto nulla a che fare con l'uomo giusto. Il bigotto nulla a che fare con l'uomo che mette in pratica ciò che professa. Il bigotto prende il lato che a lui più favorevole della grande organizzazione che gestisce il trapasso dell'anima e la vita dei corpi in terra, che è la grande Chiesa Cattolica, ne fa un uso strumentale, apparentemente ne condivide e professa i principi, ma in pratica è il più corrotto di tutti. Tra poco cominceremo a parlare dei bigotti attraverso la Commedia Italiana. Melog. Cronache meridiane. Ma come? Non ti sei fatto niente? È stato Santo Eusebio! È stato Santo Eusebio che l'ha preso al volo! Ringraziamo Santo Eusebio! Quando il sole se n'è andato e la notte si fa scura, senza stelle, senza luna, c'è una grande luce nel cielo. È il demonio! Annidatosi nella gola del fanciullo, ostruiva il passaggio di Gesù. Non lo toccate, che è ancora fresco, non con la dita in bocca, che vi avvelenate! E il comunicando sconvolto e insipiente fu colto all'improvviso da un desiderio folle di fuga che lo condusse fin sulla cima di un alto muro. Però Sansonna, qui mi sorprendi negativamente. Questo non è bigottismo, questa è fede popolare, questa, se vuoi, è l'illusoria maniera di mantenere il gregge unito attraverso il miracolo. Dov'è il bigotto in Sant'Eusebio? No, non c'è bigottismo, però c'è tutta la radice popolare del culto. Qui siamo in Ciociaria e questa è una storia molto intima, personale, di Manfredi, per grazie ricevuto, in cui racconta tutto il dramma della sua contorsione cristiana, del non riuscire ad aderire pienamente a una fede, quindi rivede se stesso nei suoi ricordi d'infanzia. Lui ha questo dramma di essere il bambino miracolato, esatto. E quindi era la prova concreta e reale dell'esistenza dell'assoluto, quindi una bella responsabilità. Certo, ti ricordi quegli ex voto che sono anche un po' raggelanti di solito quando li si vede che tempestano quelle mura? La Madonna... di tutto, il falegname con la motosega lo taglia a metà, e entra il santo, gli blocca la lama della sega, il somaro tira il calcio in faccia al somaraio e il santo blocca lo zoccolo del somaro. C'è di tutto, è bellissimo. È un naif raggelante che mi ricorda spesso quei frammenti di Dario Argento, per esempio in Profondo Rosso, quelle sorte di disegni un po' infantili che però cercano di fermare l'attimo in cui il destino, la provvidenza... Dino Buzzati, che è stato uno dei miei... da bambino, mia nonna mi leggeva i fondi sul Corriere di Buzzati, erano storie terrificanti, c'era sempre un esito che noi ci lasciava il fiato sospeso. Ha scritto, che era anche un disegnatore, ha fatto anche un poema a fumetti e tutto, ha fatto un libro di ex voto fantastici, in cui delle cose che non incredibili, mostri fantastici, cose strane, dimostrando che in realtà nulla è più fantastico della tavoletta di legno in cui la fede popolare disegna e immagina il santo che esce e cambia completamente le situazioni. Però qua non c'è niente di bigotto. Il bigotto non ha nulla a che fare, questa è fede popolare, è una cosa rispettabilissima. Andiamo avanti, vediamo se ti riesce a recuperare. Una volta subito... Non potrebbe essere questa la volta No, buona. Sono convinto che i ragazzi sono in malafede, perché chi ha visto la Madonna ha un'altra faccia, un altro sguardo e non ci specula sopra. I miracoli nascono nel raccoglimento, nel silenzio, non in questa confusione. Voi stavate andando a scuola quando vicino all'albero laggiù, chi avete visto? La Madonna. E chi l'ha vista per primo di voi? Io! Tutte e due insieme, allora? No, l'ho vista prima lui. E dopo cosa è successo? I mini vodini, due angeli. Ci siamo messi in ginocchio, la Madonna sorrideva e ci guardava e non toccava per terra coi piedi. Ma come avete capito che era la Madonna? Ve l'ha detto lei? Sì. Non ci vogliono proprio credere. Ma come si fa a credere? Ma sarà stata proprio la Madonna? Ma non importa se la Madonna sì o no. Come non importa? Perché dice così, signore? Ma sì, non importa. La vostra Italia è una terra di culti antichi, ricca di forze naturali e soprannaturali. E quindi ognuno ne sente l'influenza. Del resto, chi cerca Dio lo trova dove vuole. Anche lei è venuta per una grazia. E qua dove siamo però? Qua è un'altra... Siamo ancora nell'Italia dei miracoli. Siamo nella periferia di Roma, siamo in piena dolce vita qui. Fellini nel suo campionario di immaginario popolare, trasfigurato nell'onirismo, nella follia geniale, figurativa sua, anche lui veniva appunto dal fumetto, racconta questo frammento, un po' Mastroianni vagando nel suo peripatetico vagabondare per Roma e dintorni, incappa nella magia popolare. Qui, anche qui arriveranno i venditori di panini, i venditori di ammennicoli, di souvenir, perché il sacro diventa anche questo nella sua tessitura popolare, appunto. È lo sguardo disincantato e panteista della signora che guarda e dice: ma voi italiani siete tutto, se neanche non è la Madonna, sarà una grande madre, sarà qualche dea della terra, che importa, tanto voi ne vedete di tutti. Certo, come vedi, Fellini è una profezia continua del presente, o perlomeno congela un tempo che praticamente è imperterrito attraverso il nostro scorrere e scandire il tempo. Il passaggio della mummia di Padre Pio per Roma di meno un mese fa è esattamente lo stesso fenomeno, improvvisamente. Un mucchietto d'ossa ricoperto di silicone passa e la gente improvvisamente di fronte al corpo incorrotto perché attraversato dalla grazia di un grandissimo uomo. Cosa è cambiato? Niente, gli idolatribus di Bacone sono rimasti quelli. Sono apparso alla Madonna, era il titolo dall'autobiografia di Carmelo Bene, che raccontava appunto questo, quanto si è la Madonna che ci appare, che è dentro di noi. San Giuseppe da Copertino aveva nascosto questo quadro di questa Madonna che adorava perché ne era tentato, era diventato la Madonna. Era lui. Tentato dal quadro della Madonna? Madonna loro. Vabbè, c'è qualcosa di molto morboso dietro. Beh, c'è un cotè morboso in fondo in tutto quanto, anche nei disegni. Tu citi sempre santi pugliesi, santi meridionali. Sono pugliese. Beh, questo santo è un santo che volava. Certo, volava perché perdeva se stesso, per perdersi. Il santo inizia dove finisce la misura. Io mi perdo ogni mattina quando m'alzo. Ma tu sei un po' santo, sei un santo umbro però. Vabbè, andiamo avanti. Non vorrei che ci fossero sguardi indiscreti. Sono una persona abbastanza nota. Di dov'è lei, signorina? Moldava. Di quale città? Sambara. Ma dove c'è il famoso monastero ortodosso di Brancunianus? Una pietra preziosa dell'arte ortodossa. Complimenti. Quanto mi prende lei? 100 bocca e 150 completo. No, scusi, c'è un parametro illogico in questa sua richiesta. Cioè, non riesco a capire come un semplice boccaglio possa costare il 35% in meno rispetto al rapporto completo. Qua mi fa sorgere due dubbi. O lei dal punto di vista orale da 110 e lode oppure nasconde delle magagne dal punto di vista fisico, scusi, eh? Ma che cosa vuoi da me? Voglio pagare il mio boccaglio come una persona onesta, scusi, come lo pagano tutti. Non fuori mercato, come lo si paga sulla Palmiro Togliatti, sulla Tiburtina, sulla Tiberina, a Piazzale Lagosta a Milano, ai campi di Bisenzio a Firenze, scusi. 70. Qua ci siamo, qua cominciamo a entrare nella fisionomia del personaggio eterno che ha attraversato il nostro paese, diciamo, dalla liberazione fino alla contemporaneità. Questo è il vero bigotto, questo è il professore di storia dell'arte, una delle peggiori e più crudeli interpretazioni di Verdone, che massacra il figlio, continuamente pedante, puttaniere radicalmente convinto, però con un aspetto esteriore delle alte frequentazioni, anche ecclesiali, anche politiche, via dicendo, anche nel momento in cui consuma un amore mercenario, deve imporre la sua visione della vita, subito fa il parallelismo fra la povera prostituta moldava e la Chiesa, la Madonna, quindi l'iconografia è totalmente spogliata del suo valore assoluto, profondo, mistico, e diventa semplicemente una rappresentazione per coprirsi quella che sono le bassezze oppure le umane cedevolezze di quest'uomo. Hai notato la mutazione antropologica delle figure del contemporaneo italiano di Verdone? All'inizio degli anni Ottanta i preti erano delicati, era quello che parlava con se stesso nel suo Getsemani, il prete meridionale con gli occhi storti e il professore che era in fondo l'antenato di questo Ofurio, cioè quello pieno di tic. Sì, questo è Ofurio rimasto vedovo probabilmente, infatti non c'è la moglie. E si è illividito, si è incancrenito, diventa feroce, diventa uomo di potere, verso i 60 anni assume questo aspetto violento anche e la citazione colta diventa un'ulteriore arma da scagliare contro la prostituta moldava per sancire la propria superiorità comunque culturale anche in mezzo una strada, anche a bordo di una frontiera. Sì, come quei preti che vanno a Marchette e poi dicono adesso pentiamoci, preghiamo, spentiamo, dopo che hanno consumato. Per aumentare la voluttà. Certo, così fa. Ma perché mi fa parlare? Prima di tutto perché sono un prete e poi perché le fa bene parlare. Su, avanti. Mi ha anche letto una poesia scritta in nome della madre morta. Beh, è bello tutto ciò, è romantico, poetico. A un certo punto del ballo sì. Gli ho detto all'orecchio. Cosa? Senti, ragazzo, sì. Tu mi piaci e sento che neanche io ti faccio schifo. Perché tergiversiamo? Già. Adesso è la donna che prende l'iniziativa, non l'uomo, eh? Certo. Bene, allora? Gli ho detto, visto che tu mi piaci, sì. Voglio fare l'amore con te. E lui ti ha risposto? No, perché era venuto con la sorella. E che cazzo? Scusa, voglio dire, è finita così? No. Allora? No, però nemmeno è un caso di bigottismo, è un prete maialone che confessa una povera ragazza di buono spirito e di coscia allegra e riesce a malapena a contenere la sua eccitazione, o no? Certo, c'è tutto l'odore di perversa e mellifola sagrestia che Sordi si porta dietro fino agli anni Ottanta in cui incontra in questo ascensore. Che l'ambiente in cui lui ha sempre galleggiato, diciamo la verità. Certo, è il suo con tutti gli annessi e i connessi, anche i risvolti più oscuri. In fondo qui Melliflo avvolge la Sandrelli in questo ascensore agostano e in fondo denuncia anche un lato della confessione, l'ascolto erotico delle vicende altrui, no? Cioè sta lì in ascolto e cerca di estorcere, segue palpitante gli sviluppi di questa vicenda bellissima. Monsignor rimane bloccato con una bella ragazza in un ascensore, rimarranno lì molto tempo, lui è attrezzatissimo a tutto, si deve cioè, però è una promiscuità umidiccia e sudaticcia in cui il prete sente anche l'aspetto carnale. Lei è perfettamente in questo momento sollevata, non vede differenze, non c'è problemi, per lei è un'anima candida veramente. Che la Sandrelli è l'erotismo italiano octonio, cioè è pagana in fondo, è uno scontro fra civiltà quello che si consuma in questo ascensore in fondo, appunto in questa sorta di confessione emergono i due lati della cosa. Lei in quanto pagana non vede il senso del peccato che è il vero pimento, il vero condimento di ogni lussura per il prete Sordi. A tra poco. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta... Sauna da Ciro a Cocoruno. Basta la numero, rimane l'aereo in mano, vanno pure a Ciro. Un problema, non so quello. Hanno svuotato dappertutto, rotto tutto. Cioè, perciò tu non riconosci più casa tua. Avevi lo schifo delle tue stesse cose. Che lo vogliamo o no, le storiacce sono intorno a noi. Possono essere negli abusi del vicino di casa, nelle prepotenze dei mafiosi, negli imbrogli di chi ostacola i nostri progetti, di chi ruba i nostri risparmi e rovina le nostre giornate. Ma perché? Se siete stufi, questo è lo spazio per voi. Un po' telefono amico, un po' sportello delle denunce. Sono Raffaella Calandra. Scrivetemi a storiacce@radio24.it per segnalare anche il vostro caso. Noi le storiacce le rendiamo pure mitiche. Scoprite come ogni sabato alle 21.30 su Radio 24. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, un'ora sempre, e mezza, 90 minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. E a tutti i convocati weekend ci sono anch'io, sono Giovanni Capuano, vi aspetto ogni domenica alle 17. Melog. Cronache meridiane. Ehi! Che piacere rivederti. Tieni piccola, hai 2 ore di libera uscita. Grazie. Vattene al cinema se vuoi, scappa. Allora, sempre in forma tu. Il tuo bel nasone. Anche tu sempre bello, elegante, sì. Oh, sei bellissimo. Porti sempre la veste? Ho anche l'abito, ma lo porto solo in viaggio. E il padroncino come va? Gli dai qualche svago di tanto in tanto? Ma smettila, Fausto, che cosa dici? Non fare la mammola. Cosa ci staresti a fare altrimenti in mezzo a tutte quelle monache? Ma Fausto, che cosa dici? Lascia stare le suore, poverette. Sì, uomini e donne. Ecco cosa siete voi, preti e monache. Uomini e donne. È molto bello qui. Uno spettacolo che non finisce mai di meravigliare. Sì. Di sera si vede tutta Roma illuminata. Ecco. Oh, scusa, Fausto. Scusa? E scusa di che? Me ne frego io di non vedere Roma. Non mi è mai piaciuta Roma. Per me Roma è la capitale della Turchia, città grande e bugerona. Anzi, perché non vieni con me a Napoli? Eh? Tu mi dai la tua assistenza spirituale e io ricambio a vermicelli e vongoli. Magari, ci verrei, sai, ma non posso, ho tanto da fare qui. Ah, piantala. Anche se mi sento così inutile. Delle volte vorrei essere un semplice parroco di campagna, a contatto con le vere miserie dell'uomo. Sì, balle, retorica. Di una cosa piuttosto, 30 secondi per rispondere. L'inferno, il diavolo, esistono? Ma dai. Dai, dai, dai, dai, rispondi. Esiste il diavolo? Sì, il diavolo esiste. Esiste perché esiste il male. Ma no, di là, dico, dall'altra parte. Oh, smettila, Fausto. Lasciamo stare questi discorsi. Tu piuttosto, cosa sei venuto a fare qui a Roma? A trovarti. Ho bisogno della qui tua è una situazione paradossale. Il prete nella sua infinita misericordia non si accorge che sa benissimo che un amico cieco gli descrive le bellezze di Roma, però anche qui c'è un filo sottile di lussuria, da una parte ambita e strappata oltre il senso che manca, dall'altra parte forse repressa, nascosta o minimizzata. Questo è Profumo di donna di Dino Risi, tratto da Giovanni Arpino, e questa è una delle interpretazioni più sottili, sublimi di Gassman, questo titano trafitto da questo handicap, in questo caso è la cecità sopravvenuta dopo una vita da militare, quindi una vita nell'odore delle caserme, nel virilismo, che si confronta, avendo perso la prerogativa della vista, si confronta con la propria immaginazione, col buio, col sentirsi una pietra, in questo dialogo tratto da Arpino, che era ispirato a un vero cieco militare di Bra, che lui vedeva nella sua giovinezza, aveva scritto il libro, che poi diventerà anche un film con Al Pacino, Scent of Woman. E qui Gassman appunto cerca di trovare un contatto con l'esistenzialismo di un non vedente, che racconta, cerca di immaginare là di là, cerca di farselo dire dal prete, lo mette di fatto in difficoltà, e il prete addirittura gli dice che vorrebbe essere come lui per provare la sensazione di mancanza, di inadeguatezza. Ecco, c'è questo scontro, questo dialogo sulla vita ultraterrena. Signorine, ieri mi sono levato la curiosità di prendere note, di controllare tutte quelle di voi che sono uscite dalla classe. Sedute, state sedute. Sette di voi hanno, non ridete, sette di voi hanno ottenuto il permesso di uscire di classe. Particolare curioso. Queste sette hanno consegnato i compiti migliori. Ora non voglio pensare che abbiate approfittato di questa uscita per consultare i testi. Ad ogni modo questo rafforza ancora di più la mia decisione di ieri. Perciò, se qualcuno di voi dovesse avere un bisogno, si può accomodare qui. Non ridete! Ma io mi vergogno. Ma se hai voglia mica te la puoi tenere, no? Ma va tu allora. Vado io, certo. Vogliamo far silenzio, per favore. Signorina Zanetti, cosa c'è da parlare? Scusi, professore, posso andare? Vada, vada. Qui è una delle vicende più morbose che possa aver pensato la commedia italiana. Terribile. Qui è il vero bigotto, ma il bigotto con quella sorta di schifosa lussuria nel cogliere i momenti di intimità altrui, però investito di un ruolo che gli permette di farlo. Qua è un Tognazzi, un professore schifoso che mette una specie di gabbiotto dentro la classe per far fare la pipì alle sue allieve ragazze tutte in epoca puberale, quindi post-puberale, quindi ragazze a tutti gli effetti, per godere di questa loro intimità con la scusa che in realtà lo fa per non fargli copiare i compiti. Com'è esattamente? È esattamente questo. Qui il più felice incontro forse del cinema italiano, quello fra il Tognazzi che veniva dall'avanspettacolo e dalla comicità leggera, che però presta la sua corporeità, unticcia fisiologica, davvera macchina pansessuale, anche con le sue contorsioni, e incontra Ferreri, che è una sorta di erede del pensiero di Buñuel, del grazie a Dio sono ateo, della riflessione appunto sul bigottismo e sul rapporto controverso con la religione. In questa provincia umbra è appunto questo professore che sembra l'Andreotti dell'epoca, con gli occhiali di montatura nera addosso, i capelli ravviati all'indietro, sembra uno Schese che imita anche lui Andreotti, e il massimo del controllo che vuole esercitare su queste allieve che devono non poter copiare, devono essere costrette a non copiare, diventa in realtà sfogo della sua perversione, ma la vivrà con intimo tormento, perché suda freddo mentre le ragazze appunto usano il bagno. Le ragazze rivoltano in farsa tutto questo perché ci mettono tutta la malizia, colgono la sua perversione e la denunciano sorridendo e prestandosi a questo gioco. Cioè, hanno capito che è una forma di controllo del loro professore, lo tengono sotto scacco, stando al gioco, facendolo impazzire per questa sorta di eroetismo, è una parafilia che va oltre ogni possibilità di narrazione. Certo, in quegli anni sapevano andarci pesante, altro che le sfumature di grigio, ma ti rendi conto la perversione? Certo, delle ragazze in una classe che fanno un gioco erotico che, diciamo, oggi sarebbe che è considerato estremo, con un professore iper osservante, iper attento, con un gabinetto dentro accanto alla cattedra, una specie di gabbiotto che dovrebbe essere un luogo di, diciamo, di bisogni igienici, in realtà diventa una sorta di interfaccia lussuriosa fra una classe di fanciulle in fiore e un vecchio professore maiale. Questa è la cosa. La censura democristiana ci andava giù pesante in questi casi, ma almeno lo scontro era chiaro, uno scontro culturale. Oggi c'è la censura del mercato, questo non si vende e quindi non si fa, per quello non si fanno più oggi queste cose. No, ma io sto pensando veramente alla raffinatezza nel descrivere una situazione paradossale quanto perversa. Nessuno oggi ci arriverebbe mai. Cioè, ci stupiamo per dei film in cui il primo film dove c'è una fellazio al vero, sai, capirai, capito? Vai su YouPorn e ne vedi 6,5 tonnellate. Può essere considerata una rottura di schemi questa? No, questo è il vero bigottismo contemporaneo. È vero, ma bisognava avere però corporalità come quella di Tognazzi, attorialità anche sottili, questa nasalità tremante, questo modo di rappresentare non in macchietta, ma in corporalità autentica, un attore, un corpo, un italiano che vive in questo modo il suo bigottismo. È il bigotto lussurioso, credibile in quanto perfettamente rappresentato. Dice, sai, chi non va in dai chiesa per chiedere un miracolo alla da Cresceranno? Sei scena pazzo, è convinto proprio, perché dice, sei una brava persona, ci sembra faticato, onesto, tutte cose, non può essere che mi hanno mandato sto castigo a me e aspetto un miracolo che la Cresceranno, eh? Beh, chi l'aspetta un miracolo? A te che fastidierà? Tu sei ciuscemese, davvero? Un miracolo che la cresce a ma, è perché il tuo miracolo che sta qui, sono sempre gente, per esempio, che no, non ci voleva e poi ci ha visto. Però lui ci getta, né? Non camminava e poi ha camminato, mi è coscetto, né? E hai mai visto qualcuno che non teneva una cosa e l'è cresciuta? Ma chi, proprio perché un miracolo è così difficile si sta concentrando, perché un miracolo è difficile, è più difficile. Ma stai, un miracolo è difficile, perché se un miracolo è difficile, io un miracolo fa. E i 100 punti e i 50 punti, sta giocando a... Cioè, boh, se è miracolo è miracolo, un miracolo è uguale a tutto. Perché allora la gente quando succede un miracolo, capito? Una cosa che succede, dice, miracolo, miracolo, tu quando attacchi, miracolo, miracolo. E mai visto uno che succede una cosa, c'è un miracolo. No. Perché è un miracolo di 50 punti. No, no, c'è sta un miracolo, miracolo e un miracolo. Ancora una volta però non vedo la chiave Bigotta. Vedo sempre una sorta di intelligente, colta e alta lettura critica velata della credulità popolare, della fede senza approfondimento, senza riflessione. No, secondo me c'è una riflessione, qui siamo in Ricomincio da tre di Troisi, sono questi due ragazzi napoletani dei primi anni Ottanta, circondati, anche lo scenario è importante, circondati dalle macerie, dalle impalcature di Napoli, che vagano e anche loro fanno delle riflessioni sull'esistente, sul fatto che appunto si viva in pieno culto popolare ancora dell'attesa fatalistica del miracolo. Allora, in maniera delicata, in maniera sottile, Troisi differenzia i miracoli possibili. Cioè, se uno ha già le gambe può camminare, se non gli ricresce la mano, se non ha la mano non può ricrescere, un miracolo troppo difficoltoso, è un inciampo. Su queste cose Sant'Alfonso di Liguria ha scritto in ginocchio, per non essere indotto in tentazione. Sant'Alfonso? È il mio santo? Sì. Il coniuge non può e non deve sottrarsi al desiderio legittimo, anzi santo, dell'altro coniuge. Sì, è un desiderio santo e non vi si può sottrarre, Alfonso. Mai. Il legittimo desiderio deve essere temperato da una ragionevole moderazione. Sì, sì, capisco. Hai ragione. Ma io vergogno a parlare di certe cose con Regina. È veramente bello, vero? Sì. Ringrazia il Dio. Insomma, che cosa devo fare? Ecco, questa è un'apoteosi di un atteggiamento bigotto e confidente comunque anche nella capacità e possibilità da parte del consigliere spirituale di entrare nelle proprie vicende private. Qua mi sembra aver capito che è un marito che parla con il prete della propria intimità con sua moglie. E la peregina di Marco Ferreri, Tognazzi incarna perfettamente il quarantenne degli anni 60, in carriera, solido, con quella voracia anche qui padana e anche un po' pagana, erotica, di attrazione verso le donne. Marina Vladì è la trionfante donna bellissima, lacerante nella sua, lancinante nella sua bellezza, davanti a cui non ci si può che piegare, che però vuole il matrimonio e soprattutto vuole succhiare il suo fuoco, devastarlo di tutte le privarlo di tutte le energie vitali per ottenere il fine ultimo del matrimonio secondo i canoni cattolici, cioè il figlio, la procreazione. Non lo fa per piacer mio, ma per dare un figlio a Dio, accucito sulla sua vestaglietta. Estrema di fatto Tognazzi è il playboy che è approdato, secondo, a 40 anni ci si deve sposare e quindi ci si deve sistemare, e chiede consigli al padre spirituale estremato, che gli dà prima uova benedette, poi gli consiglia delle siringhe, delle iniezioni e poi gli dà questi consigli spirituali. L'importante è arrivare al figlio. Ricorderemo il finale straordinario, meraviglioso, anche questo oggi intollerabile. Lui che viene confinato in uno stanzino, ormai ha procreato, il figlio è stato dato, tutti festeggiano il figlio e lui muore da solo con questo scampanio sullo sfondo in una stanzetta buia. Sembra l'apoteosi di questa riflessione è proprio questa. Muore solo perché ha dato il suo contributo alla procreazione, quindi può anche a questo punto essere un vuoto contenitore non più efficiente, non più utile. A tra poco. Si impara all'estero, l'importante è imparare i migliori e tornare per applicare il know-how che hai preso all'estero. Io sono contento nel mio piccolo di fare qualcosa nel mio paese, cioè quello di tornare, di lavorare con musicisti italiani, fare concerti, fare CD e tour in Italia. Qualcuno torna, è vero, ma sono sempre di più quelli che se ne vanno. In Italia, secondo me, non si può parlare di circolazione di talenti, ma è solo fuga. È sempre il discorso della meritocrazia, che in Italia non esiste, è un dato di fatto in tutti i settori. A Giovani Talenti ogni sabato vi raccontiamo l'emigrazione, l'espatrio, la fuga dei nostri migliori talenti. Puntiamo il dito contro la peggiore Italia, quella che vi obbliga ad andarvene e che ostacola l'innovazione, l'Italia degli amici, dei figli, dei parenti. Allo stesso tempo, incoraggiamo chi decide, con coraggio, di tornare e cambiare le cose. Sono Sergio Nava, vi aspetto con Giovani Talenti ogni sabato alle 13.30 su Radio 24. Melog. Cronache meridiane. Comunque, visto che come al solito qua non ci si mette d'accordo mai su niente, votiamo! A ridaglie coi votaci, che votiamo? Andiamo nemmeno a votare. E lei, Eminenza, non vota? Ah, famolo! Non mi pare proprio il caso. È con vera mortificazione e profondo dolore che io prendo la parola per rivolgermi a voi. Ho sentito prima qualcuno di voi, qualcuno, sì, tu proprio, mi sembra, vero? Dire, annamo, occupamo, menamo. Dammi il nesso che mi sfugge con l'argomento che stiamo trattando. Siamo nella periferia di Roma, c'è il prete appunto impegnato, comunista, insomma, di campagna. Prete di frontiera. Prete di frontiera, sì, lo si definirebbe così. E invece arriva trionfante sulla sua limousine Gassman, che il porporato, il potere della chiesa, arriva, se vede dei mughetti, dei fiori che gli ricordano la sua infanzia, entra in questa chiesa che non si sarebbe mai sognato di avvicinare. Erano gli anni in cui c'erano questi preti con la chitarra, facevano le messe beat, erano proletari, stavano molto a sinistra, piacevano tanto, faccia parte, mettevano i carro armatini, mi ricordo ancora, guarda, facevano il presepe, siccome c'era la guerra nel Vietnam, c'erano tutti i soldatini, i carri armati, a far capire che c'era la guerra, degli atti di estrema dissacrazione, ma sai, figo, facciamo ridere da ridere. Di sincretismo, sì, diciamo, sì. Fra i mondi, fra vari mondi. E qui Gassman appunto invece tocca con mano il popolo, entra un po' da vicino a toccare. Era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone, e quello era il clima, ragazzi, ci prendiamo certo, in giro. Certo. E Morandi però, vedi, ancora c'è, nell'immaginario non è cambiato, cioè il tempo si è fermato, proprio pensa, cristallizzato. Morandi è diventata una star dei social network. Sì, un cortocircuito, c'è il massimo del mesozoico che diventa il massimo dell'avanguardia. The Pills, no? Mettono Morandi come una rappresentazione... O Magalli, no? O Magalli. Sì, sì, sì, queste figure... È un cortocircuito straordinario, fa... Fra passato e presente, fra un passato che non passa, è proprio la storia. È pieno di acari questo studio, tossisco per questo, una cosa schifosa. Dai. Si è rappresa. Invece, tornando a Gassman rappresenta appunto il potere ecclesiastico pieno. In questa scena, tra l'altro, è legata a una. È il normalizzatore in questo. Il normalizzatore che vede questi scalmanati, questi borgatari che vorrebbero occupare case, vorrebbero mangiare, insomma, queste cose indecenti, e allora riporta tutto alla normalità, dando poi gli ha dato un vero schiaffone alla comparsa, gli ha sfondato la mandibola, era noto Gassman. Gli fece veramente male. Sì, Gassman picchiava davvero sul set. Vabbè, era un sadico. Sì, sì, no, questo è noto anche in teatro. Ha ruppe la mandibola al figurante che prese lo schiaffo. Sì, ruppe procurò un danno serio per questo schiaffo che abbiamo sentito. È stato rumorizzato poi in post-produzione, ma lo schiaffo era autentico. Ma perché faceva così? Che bisogno c'era? Faceva parte dell'essere Gassman, dell'essere un titano con dei lati oscuri, una gigantesca statua classica semovente in un mondo. Come i samurai quando dovevano provare il filo della nuova spada, tagliavano a metà un loro servitore per quanto funzionasse bene. Sì, cioè, il fine superiore dello schiaffo realistico era la mascella si spaccasse e il povero morto di fame preso a fare la comparsa. Esatto, quindi il dolore era autentico, si forniva tutto un cotè autentico da actor studio anche alla comparsa al figurante di Borgata. Però qui rappresenta, è toscano, ma quest'area appunto un po' aliena rispetto alla Roma di Borgata, arriva a proda qui e riporta l'ordine con il potere, con questa sua barba appunto regale da grande cardinale. Io per voi ho fatto qualche cosa, ora voi dovete fare qualcosa per me? Beh, ce lo dica lei, che cosa volete? Non mi fate domande, sennò sarei costretto a rispondervi con delle bugie. Pensate, non sciupiamo così questa bella cosa, eh? Andiamo a farci tre belli whisky, intanto. Dov'è il bar? Noi non beviamo alcol. E chi vi ha detto che dovete berli voi? Me li bevo tutti e tre io. Voi pensate. Ecco, questa è una scena che non ho mai capito, la devi spiegare. È Casotto di Citti, dove è un posto dove entra e esce di tutto. Tra le tante scene ci sono due donne, una è Marangela Melato e l'altra è la sorella. È la sorella, sono la sorella Melato. Che hanno a che fare con un signore schifosissimo che va a farsi il whisky. Beh, il whisky era considerato il segno della trasgressione. Bevano whisky gli italiani perché hanno scoperto il whisky. Oggi nessuno beve più whisky. Chi beve whisky oggi? Ma parla con un ventenne, con un trentenne, tutto dice meno che il whisky, una cosa da vecchissima. Allora bevano il whisky. A un certo punto lui, quando gli domanda loro una prestazione naturalmente di carattere sessuale in cambio di denaro, mi sembra aver capito che questo, lui le aiuta a dare il denaro, cosa accade? Una cosa che non ho mai capito. Cos'ha, una specie di cilicio? Cosa c'ha sotto? Sì, è un cilicio. Come la... Loro lo si spoglia, lui è un perverso bestiale. Sì. Vorrebbe far con loro un gioco erotico, ma talmente dentro la sua testa e basta che loro manco capito. Loro sono disposti a tutto. Ammucchiate, triangoli, sopra, sotto, scene, qualunque cosa. E a un certo punto si capisce, c'è qualcosa... Spiega, descrivi la scena. Lui ha questa sorta di cilicio come la moglie di Jacopone da Todi. Di gabbiotto, di cuoio e catene. Di cintura di castità. Delle mutande blindate. Sembra una cintura di castità, perché vorrebbe far espiare appunto il favore che ha fatto, un favore burocratico. Cioè, si passano delle carte dentro una valigetta di pelle in questo casotto posto sull'orlo dell'essere dell'Italia, che è il casotto metafisico di Citti, quindi in cui passa tutta l'Italia. E ci passa anche Tognazzi portando il suo carico di passato, in fondo lo stesso professore di controsesso di Ferreri. Uguale, sì. Sudaticcio, macerato nel suo commettere un peccato che non è neanche lineare, la sessualità non è mai pienamente appagante. Sì, però se ci ha messo addosso il baluardo per non poterlo compiere. Per non poterlo compiere, tutto il gesto impedito, no? È vissuto, e proprio c'è tutto quanto la voluttà. Si fa tre whisky. Tre belli whisky. Per essere ancora più carico. Italianizzando. Tre anche belli whisky. Alla Calboni, al Night, con Fantozzi e figli. Facciamoci tre belli whisky. Anche, in fondo è sempre quel tipo di italiano imbrillantinato, alla Calboni per l'appunto. Cioè. Lui è l'antesignano di quei maialoni da chat che stanno mesi a parlare di maialate con delle oneste madri di famiglia, poi quando questi dice beh vediamoci, questi scappano via che hanno paura. A un certo punto le due melato si stanca, dice beh facciamo, gli salta addosso, certo. E lo spogliano, lui dice no e tira fuori queste mutande di cuoio blindate. Lui non voleva altro. E piange sotto la pioggia. Non voleva altro che allucinare questo sogno erotico. Sì, non può diventare realtà. Cioè non potrà mai diventare realtà. Non avrete per caso preso la camera singola? Proprio così, è stato un pensiero del suo papà, di tuo zio. Ci ha voluto fare questo regalino alla sua tusa, poverina. E il quarto figlio in 4 anni, come i conigli. Bene. Allora, parliamo pacatamente. Perché non c'è niente di drammatico, niente di irreparabile. Tu lo sai, vero Erminia, che binario di vita noi conduciamo? Lo sappiamo, a scartamento ridotto. Vero, diciamolo pure, viviamo francescanamente, con uno stipendio che io stesso mi sono fissato, che ci permette di vivere con l'indispensabile e che rappresenta soprattutto un esempio. Sì, di cretineria congenita. Devo dire che il mattatore della nostra puntata è Tognazzi. Alla fine è lui quello che realizza meglio questa idea di italiano schiavo delle proprie paure, perché un bigotto è un pauroso, è uno spaventato. Senti la nasalità petulante che lo incarna perfettamente nel ripetere questo francescanesimo ostentato in cui bisogna vivere nel pauperismo per espiare. È una vita di espiazione, di privazione, come se la privazione fosse poi garanzia poi di un accesso alla grazia. E questo appunto è il complesso della schiava nubiana. Poi gli capiterà appunto di sprofondare nell'equivoco, perché poi dietro appunto, i paraventi della moralità, qui nel suo caso è un incidente, però si troverà in piene orge, in piene situazioni indecenti, immorali, che lo metteranno alla berlina. Io volevo parlare dei bigotti, alla fine abbiamo parlato dei maiali, non so perché. Abbiamo incrociato i temi che in fondo hanno molte connessioni, molte osmosi, se vogliamo. Vabbè, forse c'è un nesso comune che mi sfuggiva all'inizio. La mia intenzione però era buona. È stato uno scivolare lento verso quella china che è difficilissima poi da risalire, del pregiudizio nei confronti di queste sante persone. Alla prossima.